Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Roma, 1 marzo 2013. Aperitivo col feto in borsa. Tra la cornice delle mie gambe l'acqua della tazza è diventata rossa. Distingo una mano, un piede, minuscoli, quasi alieni. Non è un bambino lo vuoi, è un alieno, non si muove più. L'ho capito subito, mesi fa, di nuovo incinta, il mio corpo felice che mi chiedeva di condividere quella felicità, di accoglierla, di amarla, mi diceva qualcosa la sai fare. Beh, in questo momento della mia vita il fatto che qualcuno, anche solo un ammasso di cellule, mi riempia, mi terrorizza. Ci tengo al mio vuoto. Ci ho messo 25 anni per capire che intorno c'è solo deserto e non ci rinuncio. È la mia dimensione, essere sola, da sola. Mi sveglio la mattina e penso a nessuno frega niente se scendo dal letto, a nessuno tranne me. Questo mi rende libera di fare di me, delle parti di me, ciò che voglio. Voglio essere un'isola. Non ci torno in quel reparto, in ospedale. Aborto, IVG, interruzione volontaria di gravidanza, indice di volgare giudizio, quello degli altri, il medico non obiettore assente, ipocrita, attesa da macello di speranze. Tra poco non si potrà più fare, dicono. Allora mi preparo, prevengo, non chiedo niente a nessuno stavolta, mi arrangio. Recupero l'alieno dall'acqua rossa, pulisco il viscido, lo avvolgo, lenzuolo, plastica, lo chiudo nell'armadio, utero di legno ideale, mi stendo, che ora è? Le 5, perdo sangue, dolore, mi cambio, mi abbraccio per stare calda, nero. Cammino non so più da quanto, la mente sconnessa, la borsa pesante, porto sempre in giro casa, stavolta una casa di carne, l'alieno è venuto con me. Strade, vetrine, persone, sembrano ombre, ricordi di qualcuno che vuoi dimenticare, io ho sempre qualcuno da dimenticare. Silenzio e poi il suono del cellulare nella tasca. Non rispondo. Strano dopo tutte quelle ore di vuoto parlare con qualcuno. Io e Lia ci vediamo al bar della piscina. Mi dice ti trovo bene. Anche la mia borsa le piace. L'appoggio sulla sedia tra noi. A volte la tocco come per controllare che sia ancora piena della mia voragine. Lia non mi chiede niente. È l'unica a cui ho detto che ero incinta. Non se ne è accorto nessuno. Lia fuma. La cenere precipita giù, come il sangue che sento colarmi addosso. La mia punizione per aver scelto di fare da sola, di essere un'isola, di non disturbare. Ne sto solo qui, sulla sedia, ad ascoltare. Alla fine me lo chiede. Sono stata a Londra, risolta, dico vaga, casuale. Ridiamo. Poi però restiamo così, a guardare tutto il resto. Il tardo pomeriggio sulla piscina vuota, la gente, il tavolo. Tutto il resto tranne l'una l'altra. Cartacce, cibo, giornali, nei cestini si trova di tutto, scarti indifferenziati, buttare e non pensarci più. L'alieno è in buona compagnia, sta meglio lì che nella mia borsa. Vorrei unirmi a lui tra il ciarpame, invece di stare qui a fissare il cestino di questo viale, di questo ospedale, di questa città, nascondermi lì anch'io, aspettare che qualcuno mi prelevi, mi ricicli, mi trasformi in altro, mi ridia un senso, un'altra chance. Ma sono umana, non riciclabile. Mi allontano, a ogni passo la distanza tra me e l'alieno aumenta, tra me e l'altra parte di me che non è più me. Non si impara mai abbastanza a stare da soli. Nel pronto soccorso mi viene incontro un'infermiera, barcollo e mi afferra prima che cada a terra. Quando riapro gli occhi sul lettino mi guarda, sa o immagina? Giudica, chiede dov'è il bambino? Accusa, tuo figlio. Rispondo io non lo so. Lasciami stare. Voglio essere un'isola. Non disturbare nessuno. Non disturbare. Alessia Di Giovanni, in libreria con Io so Carmela, storia a fumetti di un'innocenza violata. Becco Giallo editore, 159 pagine, 15 euro. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce d'autore, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce, su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.